Canna levara è tempo primo. Tempo prima canna levara s'aspettava con un pigno. Tempo prima canna levara. S'aspettava con un pigno per se vedere fra si era numero risigno. Per se vestire brasiliano.